si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buon sabato cari ascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento il sabato, la domenica a mezzogiorno su Radio 24 con l'altra cronaca. Se siete stufi di sentir parlare di crisi economica e dei guai della politica, seguiteci, vi porteremo per altri sentieri dove i protagonisti sono gli italiani che si rimboccano le maniche e ci insegnano con le loro storie che ce la possiamo fare, si può fare. E allora iniziamo subito con qualche notizia di questa settimana. La prima riguarda i costi della politica. Finalmente qualcuno che fa qualcosa. Il sindaco di Catania taglia gli stipendi, il 30% in meno alla giunta e ai consiglieri, un risparmio di 100.000 euro al mese. E lo stipendio del sindaco, protagonista di questa iniziativa, Raffaele Stancanelli, passerà da 5.700 a quasi 4.000 euro al mese. Certo, non si potrà lamentare. Un comune storicamente indebitato che però, insomma, una goccia in mezzo al mare, ma si fa qualcosa da qualche parte per arginare i costi della politica, anche per evitare che accadano cose come questa. A Carrara, l'iniziativa singolare che possiamo sicuramente inserire nell'insieme dell'antipolitica, un pizzaiolo, il titolare della pizzeria La Torre di Avenza, frazione del comune di Carrara, ha fisso un cartello davanti alla sua pizzeria: vietato l'ingresso ai politici. Cari amici politici, che fate i furbi, insomma, ecco, beccatevi anche questa, si può fare anche questo. Però se fate come il sindaco di Catania Stancanelli, che ha tagliato il suo stipendio e quello della giunta, allora forse invece vi fanno entrare lì e altrove. La prossima segnalazione viene da Napoli, un'iniziativa coraggiosa, così possiamo dire: tutte le religioni insieme in marcia contro la camorra. L'iniziativa è del cardinale Crescenzio Sepe, rappresentanti di tutte le confessioni presenti a Napoli si daranno appuntamento il 9 novembre con partenza da Piazza Salvo d'Acquisto. Quindi un appello interreligioso, e questo già è sicuramente una bella cosa, contro la criminalità, un'iniziativa coraggiosa. Si dice spesso che la Chiesa ufficiale è un po' ferma di fronte a cose come queste. Invece c'è un'iniziativa che viene proprio dal cardinale Sepe a Napoli, vedremo quale sarà la partecipazione il 9 novembre. L'ultima iniziativa riguarda il futuro, un robot che potrà aiutare le persone in casa, ma anche i disabili. Vedremo poi quali saranno le applicazioni. È stato realizzato il prototipo dai ricercatori dell'Università di Pisa ed utilizzato in alcune sperimentazioni con i bambini autistici. Si chiama FACE, acronimo di Facial Automation for Conveying Emotions. Spero di avere pronunciato bene, ma sicuramente avrò sbagliato qualcosa. Realizzato dai ricercatori del centro Piaggio dell'Università di Pisa insieme alla Hanson Robotics di Dallas. E appunto il robot è stato già utilizzato dalla Fondazione Stella Maris di Pisa per fare esperimenti, ma non esperimenti scientifici, con i bambini autistici, e speriamo che anche da questo possano uscire altre buone notizie. Noi aspettiamo le vostre segnalazioni sulla pagina Facebook del programma durante la settimana, si può fare trattino Radio 24. E allora tra poco, con il primo argomento di oggi che vogliamo affrontare, partiamo da un dato purtroppo ancora negativo. Abbiamo detto che non parliamo di crisi economica, però la disoccupazione è salita questa settimana, lo saprete, al 10,8%, un record dal 2004. E allora noi, nello spirito di questo programma, siamo andati a cercare di capire cosa e come si può fare quando si rimane senza lavoro. L'alba di domani ci sorprenderà, addormentati, ancora abbracciati. E lo stesso sogno ci trasporterà oltre i confini più segreti. Forse un nuovo mondo ci riceverà, senza parole né paure, ed il nostro sguardo attraverserà dei desideri, la profondità parla con me, aspettando che spunti il giorno, perché non c'è gente che conta intorno, ma la tua voce ancora un po' incerta non sa quello che gli occhi ridendo confessano già. Non dirmi no. L'alba di domani, questa canzone che parla anche del rapporto tra le generazioni, per affrontare il tema di cui dicevamo, cioè quello della disoccupazione. Cosa si può fare quando, per esempio, a 50 anni si rimane disoccupati? Ed è una situazione non facile. Si può fare qualche cosa. La Confartigianato Sarda ha poco tempo fa messo a disposizione alcuni dati, e sono dati che, partendo dalla crisi e dalla situazione negativa della perdita del posto di lavoro, ci fanno ben sperare, perché sono molti gli ultra cinquantenni che aprono un'impresa, inventano una nuova attività produttiva e quindi ripartono con una nuova iniziativa. È quello che è successo al signor Pierluigi Lai. Buongiorno, lo salutiamo. Buongiorno. Eccolo qua con noi, fondatore della Logus Mondi Interattivi. Adesso mi dirà se ho detto tutto correttamente. Una impresa di editoria digitale, fa audioguide e anche, insomma, applicazioni per gli smartphone. Signor Pierluigi, ci racconti un po' la sua storia. Come lei era un libero professionista in questo caso, poi a un certo punto la crisi, meno clienti, allora ci inventiamo qualche cosa. Sì, è proprio così. Io ho una laurea in ingegneria civile e ho fatto per un bel po' di tempo libero professionista. Sono cambiate un pochino le regole per la libera professione, soprattutto c'è stato un abbassamento drastico delle tariffe professionali, e quindi la concorrenza fatta sul prezzo e non più sulla qualità ha portato un po' di difficoltà nel lavoro. E allora ho pensato bene, già da un po' di tempo, di crearmi un'alternativa. Questa alternativa poi si è concretizzata un anno e mezzo fa, appunto, con una nuova società che si occupa di informatica, una software house. E so che voi fate dei prodotti che hanno anche un buon mercato, perché siete negli store di tutto il mondo, anche su Amazon. Che cosa producete esattamente? Audioguide? Sì, abbiamo cominciato con audioguide per smartphone, quindi sono delle applicazioni scaricabili sia per il mercato Android e per il mercato Apple Store. E poi da un anno, facendo alcune indagini di mercato, ci siamo accorti che c'è uno spazio molto interessante per quanto riguarda l'editoria digitale e quindi la creazione di ebook. So che, tra l'altro, avete anche delle iniziative sul diritto d'autore, ma avete sviluppato anche una di queste audioguide per i nuraghe, cioè anche per una cosa così originale che riguarda il suo territorio. La seconda si tratta di un mare di risorse culturali presenti in Sardegna che spesso sono difficili da sfruttare per motivi economici. Questi nuraghi sono stati censiti 7.000 in Sardegna. Per sfruttare alcuni di questi, diciamo che non sono scavabili, abbiamo fatto delle ricostruzioni in 3D virtuali, quindi attraverso uno speciale smartphone si va nelle vicinanze o proprio nel sito e si vede il nuraghe come insomma era. Si può riprodurre virtualmente quello che non si può vedere altrimenti. Senta, esatto. Ma insomma, la sua impresa è abbastanza recente, un anno e mezzo. Lei prima aveva una vita professionale, adesso ne ha un'altra. Meglio prima o meglio adesso? Insomma, la crisi come opportunità è una cosa vera o... Ma sicuramente, cioè la crisi porta fuori delle risorse inaspettate, questa è stata una cosa piacevole scoprirlo, perché io ad esempio con questa ditta mi occupo di informatica, non avevo alcuna infarinatura. Era un ingegnere dei trasporti, quindi non c'entrava un H con l'informatica. Esatto. Però sta imparando, mi diceva anche prima di fare l'intervista, sta un po' studiando, si sta documentando, c'è un socio che è più documentato di lei, è un informatico, però... ci si rimette in gioco. Sì, esattamente, si può fare, no? Si può proprio fare. Questo perché... lo useremo per il promo sicuramente del programma. Senta, ma siamo abituati a vedere, soprattutto in America, giovanissimi ragazzi, i cosiddetti smanettoni, insomma, che inventano imprese ogni momento. A 50 anni come si sente nei panni, diciamo, di uno Zuckerberg di Sardegna? Sì, ma mi sento... Grazie per... il confronto, ma vabbè, avete applicazioni vendute in tutto il mondo, quindi un prodotto che ha un suo mercato, questo sì, sicuramente sì. Sì, questa è proprio una bella soddisfazione, ma in un mondo in cambiamento continuo mi sento molto giovane da questo punto di vista. È beato lei. E in questo mondo bisogna essere sempre pronti. Ecco la questione delle competenze. I miei studi mi hanno portato un pochino a questo, ad essere sempre pronta alle trasformazioni, e infatti è venuta insomma, lei è andata bene, ma ci sono altre imprese. Siamo partiti da qua, oltre 600 imprenditori in Sardegna, ma il dato riguarda un po' tutta Italia. Si perde il lavoro oltre i 50 anni e ci si reinventa con un'impresa. Io la ringrazio, le auguro buon bocca al lupo a Pierluigi Lai, fondatore della Locus Mondi Interattivi, e buon lavoro, a presto. Grazie Alessio, grazie, buon lavoro anche a lei. Restiamo insieme, facciamo una pausa per il traffico, tra poco con altre storie. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Vieni insieme a me, io ti guiderò, e tutto ciò che so ti insegnerò, finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Viaggi insieme a me, io ti guiderò, e tutto ciò che so te lo insegnerò, finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Viaggi insieme a me, io ti guiderò, e tutto ciò che so te lo insegnerò, finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Viaggi insieme a me, io ti guiderò. E c'è un altro modo nel quale nel mondo del lavoro le persone che hanno, diciamo così, raggiunto una certa maturità possono non solo reinventarsi un lavoro, come abbiamo sentito prima col caso di Pierluigi Lai in Sardegna, invece possono i manager, per esempio, delle aziende che hanno raggiunto quasi l'età della pensione, diciamo così, adesso capiremo meglio, passare tutto il loro contenuto di saperi ai manager più giovani e alle nuove leve, insomma, delle aziende. Se ne è parlato e se ne parla in una ricerca che adesso cercheremo di capire dove ci porta. Allora salutiamo Cinzia Toppan, responsabile di Area People SCS Consulting, che è responsabile di questa ricerca sull'age management, si dice così? Sì, esatto, salve a tutti. Dunque, noi abbiamo effettuato questa ricerca insieme, devo dire, all'Università di Bologna. Una ricerca quindi corredata, esattamente come le stavo accennando, da una raccolta di buone pratiche. Quindi uno dei fini della nostra ricerca era proprio capire che cosa si sta facendo in Italia per la valorizzazione del personale over 50. Anche perché siamo abituati a sentir parlare più spesso di conflitto di generazioni, no? I giovani che vogliono prendere il posto degli anziani, cose di questo genere. E invece Sì, è vero, le aziende sono uscite da un periodo in cui si era più propensi a valorizzare i talenti, quindi le persone giovani, a scapito forse della cosiddetta categoria di senior, no? Quindi questo ha creato all'interno un po' la contrapposizione tra le due categorie, e quindi, se vogliamo, anche può avere creato una certa conflittualità. Però ecco, ci sono una serie di alla luce un po' di quelle che sono le tendenze anagrafiche, quindi demografiche, un po' del nostro paese, ma anche degli altri paesi, e alla luce delle riforme ovviamente del mercato del lavoro. E delle pensioni anche, dove ci chiedono di stare al lavoro forse di più, e quindi poi si crea anche questo spazio forse. Esattamente, quindi le aziende sono tornate un po' a considerare questa categoria di persone che devono restare al lavoro fino alla tenera età dei 69 anni. Però in questa ricerca che avete fatto, credo in collaborazione con l'Università di Bologna, avete studiato alcuni casi. Vogliamo fare qualche esempio concreto, così per capire di cosa stiamo parlando? Certo, la Telecom, con un'iniziativa MS di Mestiere, ha in qualche modo delegato alcune persone senior all'interno della propria azienda a portare fuori il sapere della propria azienda, quindi ad insegnare addirittura nelle scuole professionali quelle che sono determinate materie importanti. Quali sono i benefici per le aziende? Per esempio, perché un'azienda potrebbe scommettere su questa cosa? Insomma, immaginiamo che per le persone coinvolte dei benefici ci siano, perché insomma, fa piacere essere coinvolti in processi come questi, in cui si mette in discussione la propria esperienza e si trasferisce ai più giovani. Ma le aziende cosa ci guadagnano? In effetti, pratiche anche di gestione dell'età, quindi non parliamo solo degli over, diciamo dell'età secondo i bisogni dell'età, quindi dei giovani, dei middle e dei senior, in realtà impattano poi molto direttamente anche proprio sul coinvolgimento della persona al lavoro e quindi in fin dei conti anche sulla produttività della persona, per cui significa non soltanto agire sul benessere dell'individuo che lavora diciamo più serenamente, più contento, ma impattano proprio su quei fattori che possiamo chiamare, si chiamano proprio di cittadinanza organizzativa, che denotano il coinvolgimento del lavoratore, sono ad esempio la coscienziosità, l'altruismo. E se messo in atto, naturalmente sono tutte cose che poi tornano anche in positivo alle aziende. Dunque, care aziende che ci state ascoltando, sappiate che se investite una parte del vostro tempo, delle vostre risorse, coinvolgendo i vostri manager più esperti, insomma il personale più anziano anche, diciamolo, in queste forme di age management, avrete anche dei benefici, e quindi tutto questo è positivo. Io la ringrazio per ora, Cinzia Toppanna, abbiamo cercato di aprire una finestra su questo e vedremo se nelle prossime ricerche, nei prossimi casi, verrà fuori qualcosa ancora di più positivo. Intanto grazie per essere stata con noi. Insomma, questo era, lo ripeto, l'age management, anche se ho il dubbio di una pronuncia non proprio correttissima. Adesso parliamo di un altro modo in cui si possono tenere legate tra loro le generazioni. Ho perso il mio paese è andato a fuoco e tutti i miei ricordi ora puzzano di fumo. La mia città è crollata, c'è stato il terremoto e in mezzo a tutti i resti oggi piange il mio futuro. E parliamo con Simone Saccucci da Guidonia. Buongiorno, da Guidonia è così? Sì, da Guidonia, buongiorno. Da Guidonia all'Italia, perché il suo progetto di teatro canzone, caro Simone, credo che sia rivolto un po' a tutta Italia. Lei è una specie di cantastorie moderno. Ci racconti un po' qual è la sua esperienza? Io ho detto un modo per tenere legate insieme tra loro le generazioni, perché anche di questo stiamo parlando oggi a Si può fare. Lei, la presento, è un operatore sociale, anzi credo responsabile addirittura di una comunità di persone che hanno bisogno d'aiuto, però nella sua vita privata porta avanti questo progetto, coinvolge persone, personaggi del nostro mondo di oggi per non perdere certe tradizioni, certe radici. Ci racconti, ci spieghi. La cosa è molto semplice alla fine. Il mio territorio è uno di quei territori che spesso vengono chiamati dormitorio. Quindi ormai un 14 anni fa ho cominciato a cercare le prove per dimostrare a me stesso prima di tutto che la situazione non era esattamente così, almeno in generale. E così ho cercato alla fine le prove per volergli un po' bene al posto in cui vivo. E lo fa coinvolgendo però anche le persone stesse, esatto, che stanno attorno a lei. Esatto, e la prima cosa che ho fatto è andare a chiedere alle persone che vivevano e che vivono in questo posto. Cioè uno sta lì per i cavoli suoi, nella periferia, esatto, e vede arrivare lei che gli fa delle domande, esatto. e poi cosa? All'inizio mi sono concentrato sugli anziani, avevo bisogno di capire che c'era un passato, avevo bisogno di sentire che c'era una storia. E oggi invece, dopo questi anni, insomma, ultimamente l'attenzione è verso i negozianti, i commercianti, che fanno fatica non solo per la situazione italiana in generale, ma anche per l'assetto politico-economico che sta. E che storia ha raccolto tra i negozianti, per esempio, in questo appunto periodo di crisi? Non facciamo altro che parlare di attività commerciali che chiudono, anche se noi abbiamo cercato di parlare invece di attività produttive che aprono. Lei che storia ha raccolto? Innanzitutto ho storie, e questo mi rincuora, mi ha fatto bene, storie di gente di 30 anni, quindi persone giovani che nonostante tutto cercano di portare avanti un'attività commerciale nel nostro territorio e che quindi trovano tutti gli espedienti possibili per cercare di acquistare clienti, ma quello che è stato veramente per me importante è vedere che questo, tra virgolette, acquisto di clienti era basato soprattutto sul rapporto umano, quindi si cerca con la gentilezza, con il clima familiare. Parlo per esempio di un pub che è in una zona di Guidonia che si chiama Villalba, oppure di un locale che si chiama Zenzero, faccio pubblicità oggi, gestito da ragazzi, da giovani che cercano proprio con il rapporto umano di costruire un'attività commerciale e mettendo poi ovviamente a servizio anche un prodotto che cresce via via nella qualità. Senta, ma quando lei entra non è che lo mettono alla porta perché intralcia i commerci, no? Con le sue domande, no? No. Riesce a creare un coinvolgimento. Come funziona? Poi vi ritrovate, io ho visto anche delle immagini, chi vuole andare sul sito di Simone Saccucci, è un po' un'esperienza a 360 gradi la sua. Ci sono pezzi di teatro, pezzi di canzoni, pezzi di incontri nelle piazze, non so bene dove. Come si sta sviluppando tutta questa attività? Di fondo c'è l'esigenza della partecipazione, cioè il cercare di coinvolgere il più possibile. Questo sia prima dello spettacolo, cioè tutto il materiale che poi va a finire nelle canzoni e nei monologhi che ci sono, e sia dal vivo, quindi cercando essenzialmente di far sì che il pubblico smetta di essere pubblico in quell'ora, ora e mezza di spettacolo, per stare con me e con chi suona con me sul palco. Simone, prossimi appuntamenti, prossime esibizioni, quali saranno? Così lo diciamo, allora, magari qualcuno viene. Ci stiamo concentrando molto sulla periferia. Ultimamente staremo in una periferia che si chiama Villaggio Prenestino di Roma. Sì, invece a gennaio staremo ad Aprilia in un teatro che è lo Spazio 47, e poi come l'altro anno si spera di ritornare in Inghilterra, perché in Inghilterra sembra che questa cosa sia un interessi minimo apprezzata. Sì, piaccia. Sembra di sì, nonostante il mio inglese. Grazie per ora, ci risentiremo senz'altro quando avrà accumulato altri racconti e altre esperienze. SimoneSaccucci.it per chi fosse interessato ad andare sul sito. Adesso facciamo una pausa. Informazioni dal giornale radio, ci ritroviamo tra pochissimo con Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, oggi con Si può fare siamo partiti insomma da cosa si può fare, come si può fare quando arrivati a una certa età si perde il lavoro, e la storia di Pierluigi Lai dalla Sardegna ci ha un po' confortato da questo punto di vista. E poi abbiamo parlato anche, già che eravamo in tema, del rapporto tra le generazioni. Avete sentito la ricerca dell'Università di Bologna sull'impiego insomma delle risorse più anziane nelle aziende, che possono trasferire il loro sapere ai più giovani. E sono belle pratiche anche queste. Poi la storia di Simone Saccucci, che con il suo teatro canzone gira tra le periferie delle città laziali, ma non solo, parlando proprio anche di questo, di come resistere alla crisi. Le sue insomma interviste, le sue canzoni che ultimamente girano attorno al tema dei negozianti alle prese con la crisi. Noi aspettiamo le vostre notizie, le vostre segnalazioni sulla pagina Facebook del programma Si può fare trattino Radio 24. Adesso andiamo a Bologna. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice, say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. A Bologna nasce la Consulta delle Biciclette, avete sentito bene, sarà un luogo di confronto tra l'amministrazione comunale e le associazioni dei cicloamatori per fare proposte, valutare progetti, visto che in questa città i ciclisti cittadini, cioè quotidiani, i cittadini che usano la bicicletta quotidianamente sono aumentati moltissimo. Ne parliamo con Andrea Colombo, che è niente po' di meno che l'assessore alla mobilità del Comune di Bologna. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, uno potrebbe pensare un po' ai soliti carrozzoni, no? Commissioni permanenti, istituzioni nuove, eccetera. Però noi che siamo un programma amico della bicicletta, sicuramente, perché è un mezzo sostenibile, insomma, fa bene da mille punti di vista, vogliamo sapere di più di questa iniziativa che comunque in fondo ci piace. Assessore, di cosa si tratta? Tutto è nato da un progetto di una nuova pista ciclabile che volevamo realizzare in città, e siccome in passato avevamo ricevuto un po' di segnalazioni dai ciclisti e dalla loro organizzazione su cose che non andavano, ci siamo detti proviamo a progettarla direttamente insieme a chi poi la dovrà utilizzare tutti i giorni. E si è instaurato un rapporto molto forte con le associazioni che già in qualche modo erano riunite in un coordinamento informale, e da lì è venuta l'idea di istituire una vera e propria consulta comunale della bicicletta con tanto di voto del Consiglio Comunale. Senta, ma insomma, il suo comune, questa amministrazione, la città di Bologna, seguiamo le notizie, avete fatto diverse cose nella direzione di una mobilità più sostenibile, dal bike sharing, cioè le biciclette che si affittano a basso costo per girare in città, alla zona pedonale. A proposito, a che punto siete con la zona pedonale? La zona pedonale è stato un progetto proprio di inizio mandato, sì. Finalmente anche Bologna alla sua isola dedicata solo a pedoni e ciclisti, 2 ettari, le 3 strade principali del centro storico. La famosa zona T. Sì, le abbiamo chiamate T perché sono 3 strade che creano una specie di T nel centro della città. Esatto, li abbiamo chiamati T-Days, li abbiamo sperimentati in 2 weekend a settembre e dicembre dell'anno scorso, sono andati così bene e ci hanno anche fatto vincere il premio europeo per la settimana della mobilità sostenibile, che abbiamo deciso dallo scorso 12 maggio di stabilizzare quest'area pedonale che continua ad andare benissimo. I bolognesi e anche i turisti si sono finalmente riappropriati della città, della possibilità di respirare senza troppo rumore e inquinamento. Senta, anzi, cari cittadini bolognesi, scriveteci proprio su Facebook e commentate anche le dichiarazioni dell'assessore Colombo se siete d'accordo, perché visto che abbiamo l'opportunità di parlare con l'assessore di una grande città, è importante chiarire questo, perché si fanno politiche per le biciclette, però a volte uno potrebbe pensare che sono più degli spot, no? Si spende qualcosa per il bike sharing, per mettere queste bici pubbliche, si fa qualche annuncio, poi però, che ne so, la vecchietta che deve andare a fare la spesa non ha l'autobus, oppure sull'autobus c'è troppa gente, c'è traffico, le linee non passano. Lei che appunto da questo punto di vista guida il traffico in una grande città, come stanno vivendo i suoi concittadini queste trasformazioni? Cioè, c'è una disponibilità a accettare tutti questi cambiamenti, come per esempio il centro chiuso, oppure sono più, insomma, quelli che vi mandano delle maledizioni? No, alla fine ci sono alcune un po' tradizionali opposizioni al cambiamento, come da parte di alcune categorie economiche, ma la città, la stragrande parte dei cittadini è d'accordo con queste trasformazioni, perché sente il bisogno di un ambiente più pulito e più sano in cui vivere, e poi muoversi a piedi, in bicicletta e col trasporto pubblico alla fine fa bene non solo all'ambiente ma anche alla salute e in questo periodo al portafoglio. Quindi andiamo avanti. Tra l'altro a Bologna ci fu un referendum nel lontanissimo 1984, mai attuato del tutto, quindi è arrivata veramente l'ora di dare seguito a quella volontà popolare. Ecco, visto che lei fa una citazione per così dire un po' antica, mi viene in mente quando proprio la sua città, forse qualche anno prima ancora, sperimentò i mezzi pubblici gratis. Noi abbiamo dato notizia qualche settimana fa di un'sperimentazione a Settimo Torinese, dove alcune linee dei mezzi pubblici di questa città sono offerti, tra virgolette, dall'amministrazione pubblica, proprio per incentivare la gente a fare questa scelta. Ora, non le chiedo di mettere i mezzi pubblici gratis a Bologna, perché non credo si possa sbilanciare sin qua. Però a livello di incentivi si può fare di più? Farete qualche cosa, e cosa state facendo? Ma qualcosa abbiamo provato a farlo subito. Abbiamo introdotto un abbonamento gratis per tutti i bambini fino alle scuole elementari compresi. Stiamo parlando di una misura che tocca 20.000 famiglie in città, e abbiamo previsto degli sconti speciali per chi durante il weekend viene in centro in autobus muovendosi con l'intera famiglia. In sostanza, con un biglietto unico riescono a viaggiare fino a 2 adulti e 5 ragazzini fino ai 15 anni, quindi un modo in più per promuovere un centro accessibile e attrattivo. Tra l'altro la sua città era stata protagonista in negativo anche per la vicenda, si ricorda, dei calciatori del Bologna che parcheggiavano dove non si dovevano, dei pass, eccetera, eccetera. Com'è finita? Come si è conclusa? Che stiamo rimettendo mano in maniera rigorosa ai pass cosiddetti handicap, che vengono rilasciati, chiariamolo, in maniera legittima dal comune sulla base di certificazioni che i cittadini presentano, ma che non sempre sono utilizzati correttamente. Si è aperto un nuovo rapporto con le associazioni dei disabili, consapevoli che questi episodi danneggiano poi chi davvero ha problematiche di deambulazione, e da qui la costituzione di un tavolo contro le barriere architettoniche in cui progettiamo assieme gli interventi più importanti e una forte attenzione al tema dell'accessibilità anche ai mezzi pubblici. Abbiamo istituito 2 nuove navette per il centro storico e abbiamo garantito che siano sempre dotate di pedana per le persone disabili. Noi, assessore Andrea Colombo, assessore alla mobilità del Comune di Bologna, la ringraziamo. Non so se lei vuole prendere qualche altro impegno, questo non è l'unico naturalmente programma, la radio o insomma mezzo di informazione che segue questi temi, però sicuramente i nostri ascoltatori sono molto interessati a queste questioni. Il prossimo step per il futuro, cosa avete in mente, qualcosa sul fronte della mobilità sostenibile? C'è questo movimento nuovo Salva i ciclisti che si sta saldando con le associazioni più tradizionali di cicloamatori. L'impegno che vogliamo prendere nei confronti di questo grande appunto movimento composito è di lavorare sulla estensione delle zone 30 km orari nei quartieri residenziali. Ah, quindi perché una cosa abbastanza impegnativa da questo punto di vista. Sì, perché la frontiera non è più soltanto accontentarsi dove è necessario e dove è possibile di piste ciclabili, ma di avere proprio una città, soprattutto nei suoi quartieri più di vicinato, vivibile e accessibile in sicurezza, soprattutto a chi si muove a piedi, in bicicletta e col trasporto pubblico. Quindi zone in cui abbassare il limite di velocità, fare attraversamenti rialzati, risistemare i marciapiedi. Ci dia una data per vedere qualcosa di concreto su tutto questo? Insomma, io spero che dalla prossima primavera qualche risultato possa cominciare a vedersi. Ci abbiamo lavorato in questi mesi e poi il fenomeno è esploso e quindi viva i 30 km orari. Caro assessore, ci vedremo in primavera a Bologna e vedremo come è andata a finire. Grazie per ora, grazie per essere stato con noi Andrea Colombo, assessore alla mobilità del Comune di Bologna. Grazie a voi, buone pedalate. Grazie anche a lei naturalmente. E allora, dato che domani si festeggiano le forze armate, allora c'è chi ha deciso di festeggiare tutto questo in un modo diverso, un po' particolare. Sentiremo tra poco dopo la pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Proprio come un albero che vive in mezzo agli alberi, mi sento quando giro per il mondo. Cerco di far sì che il vento non mi butti giù e di affondare le mie radici nel profondo. Prendo il sole in faccia per far sì che le mie foglie siano ben appiccicate lungo questi rami. Ospito tra le mie braccia nidi di uccellini e do rifugio nel mio fusto a molti sciami. Proprio come un albero mi spoglio e mi rivesto a seconda se c'è freddo o c'è calore. Dentro la genetica la mappa delle cellule descrive a quale genere appartengo. Se sono una quercia oppure un salice piangente oppure un baba vado fatto di pianura. Quello che è importante è che al mondo ci sia spazio per qualsiasi espressione di natura. Prendi il sole in faccia, bevo molta pioggia. Prendi il sole in faccia, bevo molta pioggia. Problemi a convivere con gli altri, sono pronto ad accettare la mia sorte. Sono consapevole del fatto che più o meno presto tardi ci sarà per me la morte. Quella che Totò ha definito la livella e che alla fine ci livella tutti uguali. Alberi, bestiole, re, profeti, presidenti, calciatori, poverette d'animali. vero che io penso come albero parlante che la vita sia questione di radici. Insomma, la giornata delle forze armate che verrà festeggiata domani 4 novembre, c'è chi proprio in questa data festeggerà la seconda giornata nazionale invece del guerriglia gardening. Insomma, armati di pale, rastrelli e vasi di terra, un esercito di piantatori di piante, ve lo troverete in giro un po' dappertutto in tutta Italia. Un'iniziativa non esattamente coordinata, dove ognuno farà un po' quello che crede, dove però l'obiettivo è testimoniare, insomma, l'importanza, poi banalizzando, del verde nelle città. Ma adesso speriamo di avere qualche parola in più da Andrea Giordani. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Uno dei tanti piantatori, uno dei tanti guerriglieri di guerriglia gardening, un movimento, adesso lei ci spiegherà un po' da dove viene, di cosa stiamo parlando. Nella vita fa il medico, quindi non ha nulla a che fare, non è giardiniere, non è... Neanche un po', però parteciperà domani a questa iniziativa. Lei che cosa farà innanzitutto per testimoniare la sua adesione al guerriglia gardening di Bologna? Dunque, allora, io agirò a Quarto Inferiore, che è una cittadina in provincia di Bologna, e la mia intenzione è quella di piantare un albero di ligustro e poi anche dei bulbi di tulipani, visto che questa è la stagione, facendo seguito a quella che fra l'altro è la giornata del tulipano, che si è svolta il 9 d'ottobre. Questo è stato un movimento internazionale, in realtà. La giornata del tulipano? Sì, il 9 di ottobre, il 10 di... insomma, ogni ottobre c'è stato la giornata internazionale del tulipano. Ma perché, scusi, già che ci siamo, perché la giornata del tulipano? Per quale motivo? Ma dunque, non c'è un motivo preciso, semplicemente così. Sono delle provocazioni, delle proposte che sono state lanciate. La giornata del tulipano sono già 3 anni che viene fatta in tutto l'emisfero nord, viene lanciata da un inglese che è il guerrilla gardener più famoso e più attivo al mondo, direi. Non è che è uno che c'ha un'azienda di import-export di tulipani, no? Decisamente no. Sarebbe un po' deludente. Comunque, niente, quindi in tanti abbiamo partecipato a questa giornata, mi sono rimasti una marea di tulipani, per cui, visto che il periodo è giusto, li interrerò i bulbi anche in occasione della giornata nazionale. E mi diceva prima di fare l'intervista che li interrerà vicino a una fioraia, così per vicino accertarsi fioraia, che sì. Gli dia l'acqua, insomma, che faccia una quello. Fioraia, sì, perché il concetto è proprio quello di cercare la collaborazione da parte dei cittadini, dei commercianti che stanno intorno. Allora, qualche giorno fa sono andato a preparare la zona, cercando di non farmi vedere. Era in la tutta mimetica. La fioraia mi conosce perché giro nella città con un innaffiatoio in mano, mi ha detto: senti, visto che metterai qualcosa lì, e lo so, te li innaffio io i fiori. Ho detto: va bene, grazie. Beh, insomma, la solidarietà della fioraia ce la potevamo aspettare, visto che è il suo mestiere. Però so che, insomma, come lei stava dicendo, cercate di coinvolgere cittadini, abitanti del quartiere, come si fa, insomma, in questi casi, a sensibilizzarli poi su questo tema. E quindi come va lì nel suo quartiere? Molto bene, c'è una zona di fronte ai giardinetti per bambini, al parco pubblico di Quarto Inferiore, dove a maggio disseminai centinaia di girasoli che sono venuti su molto bene, e c'è stato un signore anziano che, vedendomi tutti i giorni innaffiare queste due grosse aiuole inizialmente prive di qualunque vegetazione, e tutti i giorni mi ha detto, mi ha chiesto cosa stessi facendo. Poi si è domandato se lei fosse per caso pagato dal comune oppure no, un disoccupato che passava i pomeriggi. No, ha capito lo spirito. Uno di quelli che a Bologna si chiamerebbero gli umarella, l'anziano con le mani dietro la schiena che guarda i lavori in corso. Quelli che poi spesso hanno magari anche il loro orticello da qualche parte. Assolutamente. Lui infatti ha preso spunto da questa cosa in una zona lì vicino, in una zona assolutamente non permessa sul territorio pubblico, ha creato il suo orticello e dice: io ci metto anche dei fiori adesso. Hai capito. Questa persona mi ha aiutato durante l'estate, quando io ero in ferie, e ha annaffiato costantemente le aiuole dove avevo piantato i seminati girasoli. Ecco, chissà se sarà mai possibile fare una stima di quanto il verde pubblico insomma, a Bologna o nel nostro paese addirittura sia aumentato in questi anni, da quando voi del guerriglia gardening siete scatenati. Sarebbe bello poter fare una statistica per visualizzare tutto questo, perché sicuramente oltre al simbolo, poi c'è anche il gesto concreto. Un movimento questo, mi diceva, totalmente anarchico, non c'è un coordinamento, non c'è una rete, esatto. Ognuno fa quello che vuole, però tutti con lo stesso spirito. Sì, lo spirito è fondamentalmente quello di intanto di divertirsi e poi di cercare di rendere migliore la propria città, perché poi la propria città non è altro che, se vogliamo, un'estensione della propria casa, per cui non fermarsi al proprio giardino, al proprio balcone, ma prendere possesso delle aree verdi, più o meno verdi, della città, generalmente senza chiedere il permesso, perché poi questa cosa passa attraverso un'azione illegale fondamentalmente, e quindi cercare di piantare fiori, seminare, interrare bulbi, piantare alberi, e per far sì che poi qualcuno ti noti, ti veda, a forza di prenderti cura di queste aree, poi a un certo punto decida di partecipare a questa azione di manutenzione del proprio paese. Questa è la cosa che principale. Senta, a proposito di manutenzione del proprio paese, forse avrà seguito recentemente il disegno di legge anticementificazione presentato dal ministro dell'Agricoltura a Catania, che ha detto di avere molto a cuore il paesaggio, il verde, e insomma di difenderlo dall'aggressione che purtroppo sta andando avanti del cemento. Ci volevano i tecnici, i ministri tecnici per arrivare a una soluzione del genere, a una proposta, poi naturalmente vedremo cosa succederà. È una cosa di buon senso questa, no, però? Ma che sia di buon senso non c'è dubbio. Diciamo che chi si occupa, chi si diverte a fare il giardinaggio non autorizzato, lo fa perché ha di fronte a sé un'area verde che vuole immediatamente in qualche modo riqualificare, per cui ben venga la legislazione per la difesa del territorio. Diciamo che noi giardinieri d'assalto ci occupiamo di quelle poche aree verdi che sono rimaste al giorno d'oggi all'interno delle città. Senta, il 16 gennaio, mi suggeriscono dalla redazione, c'è la giornata internazionale dei fiori. Parteciperà oppure è una cosa che non la interessa, troppo commerciale magari? No, allora no. Non è una questione di commerciale o non commerciale, che è un'altra cosa. Il 16 gennaio sarà evidentemente una manifestazione, sì, di tipo espositivo. Positivo, certo. Per cui sarà un periodo assolutamente inadatto a fare una qualunque azione di giardinaggio non autorizzato, ecco. Va bene, insomma, domani 4 novembre ne vedremo, credo, delle belle nelle città italiane, Guerilla Gardening. Grazie Andrea Giordani, medico romano trapiantato a Bologna, che ci ha raccontato come trapiantato, tra l'altro, anche lei. Sì, decisamente trapiantato. Che parteciperà a suo modo, ci ha raccontato come, a quarto inferiore. Grazie per essere stato con noi. Grazie, aderite, perché è divertente. E allora siamo in chiusura, io ringrazio Franco Piantanilla in redazione, Guido Scotti in assistenza in redazione oggi e poi Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma, Matteo Comes in regia, ci risentiamo domani a mezzogiorno. Ciao, sono Raffaele, sono un volontario di Cuneo, se per cortesia potete darmi una mano per lanciare un appello, c'è una bimba di 8 anni, si chiama Elena, ha la leucemia. La situazione è molto grave, necessita di vestiario e di scarpe. Se gentilmente potete darmi una mano per lanciare un appello, lascio il mio numero 339-254-1807. Elena è ricoverata al quinto piano di Regina Margherita per leucemia. Datemi una mano perché la mamma è veramente disperata. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Sì!